Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come... Buongiorno, soldi, soldi, soldi, cantava Betty Curtis, e forse dovrebbero cantarlo anche tanti imprenditori italiani, perché in questo momento di piccola ripartenza del ciclo dell'economia reale c'è bisogno di investimenti. E invece gli investimenti delle imprese italiane si sono contratti negli ultimi 6 anni del 25%, contro una contrazione media in Europa del 15%. Ma allora come trovare questi soldi? Come deve fare l'economia reale per alimentarsi? Ne parleremo in questa trasmissione con Roberto Crapelli, amministratore delegato della filiale italiana di Roland Berger. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ha fatto una proposta molto originale su come creare il mercato dei capitali, e con Enrico Marchi, presidente di Finint, la finanziaria internazionale, che è una delle maggiori merchant bank in Italia, nonché leader nel Triveneto, e che aiuta moltissimi imprenditori a trovare le risorse per crescere e per alimentare la loro attività. Buongiorno, dottor Marchi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Crapelli, lei ha fatto sul Messaggero un articolo in cui prima dice che servono un sacco di soldi e poi dice che bisogna creare un nuovo mercato dei capitali per reperire questi soldi, un mercato dei capitali più moderno e più efficiente. Praticamente lei ha fatto una proposta che potrebbe addirittura, se attuata, cambiare il capitalismo italiano. Allora, che cosa ha detto lei? Lo riassumo agli ascoltatori perché io sono un po' più veloce, poi le lascio la parola e commentiamo. 1. Gli investimenti delle imprese italiane in internazionalizzazione e innovazione sono calati, un quarto in meno negli ultimi 6 anni. Però l'impresa manifatturiera deve modernizzarsi. Entro il 2030, per adeguarsi a Industry 4.0, a Internet delle cose, alla robotica, solo in Europa serviranno 1.350 miliardi di euro. E visto il peso dell'economia reale italiana, possiamo stimare, ma lo dico io, lei non l'ha scritto, 135-130 miliardi di euro solo in Italia. Bisogna cavalcare questa ripresa, che anche se la borsa va malissimo, e ne parleremo dopo, ma una mini ripresa dell'economia reale c'è, e ci vogliono investimenti su progetti industriali di sistema o filiere di imprese. Quindi ci vuole un mercato dei capitali maturo, con fondamentali caratteristiche di trasparenza e liquidità. Questo è quello che Roland Berger ha proposto sul Messaggero. Lei che cosa aggiunge a questa sintesi che ho fatto io? Aggiungo che l'esigenza di questo mercato di capitali riguarda non tanto e solo il mercato equity, ma soprattutto il mercato debito. È una delle ragioni per cui il mini bond, che fu un'iniziativa molto virtuosa, non ha potuto decollare, perché non c'è chi i mini bond li può rimettere sul mercato e farli acquistare da fondi specializzati o da fondi istituzionali che potrebbero utilizzarli e potrebbero lasciare alle aziende la possibilità di finanziarsi in questo modo. Insomma, quindi lei ha scritto che ci vogliono dei soggetti intermedi, che si possono chiamare per comodità conduit, capaci di assicurare la solidità degli attivi sottostanti all'impacchettamento dei titoli, quindi praticamente delle specie di megafondi che rendano possibili operazioni di sistema di grandissime filiere. Lei ha fatto l'ipotesi 400 piccole aziende più una grande azienda, che facciano magari emissioni da 1 miliardo per finanziare, e che sotto ci sia un piano industriale di ristrutturazione di quella filiera industriale. E voi di Roland Berger avete stimato che la capacità di leva di operazioni articolate in questo modo può essere anche di 8 volte? Sì, confermiamo questo. Ripeto, questi soggetti intermedi che non esistono nel paese sono fondi, ma soprattutto sono finanziarie, 107, qualunque soggetto in grado di essere principal, quindi di poter acquistare o partecipare all'investimento sul pacchetto di mini bond che vengono poi portati sul mercato con una logica industriale, non per classe di rischio o per categoria, come si fa ad esempio nelle cartolarizzazioni. Ma quindi, per esempio, sono a me viene da pensare ai bond di distretto, però i distretti non sono così grandi come voi avete detto. Qui per 400 aziende più una grande impresa è una roba grossa grossa. Sì, distinguiamo tra soggetti e prodotti strumenti. Il bond di distretto è uno strumento, il soggetto non esiste che lo fa. Le banche non possono fare questo lavoro da sole perché gli grava sul bilancio e perché sono in conflitto in questo senso. Devono essere soggetti indipendenti, principal vuol dire che sono in grado di investire una parte per cominciare a fare il prezzo e successivamente lo portano sul mercato. L'indagine che abbiamo fatto sui fondi istituzionali esterni, sull'attrattività di questo modo di riconfigurare il debito nelle medie e piccole aziende italiane, nelle filiere, è stato molto positivo in tempi recenti. Ecco, dottor Marchi, ma qui siete chiamati in causa voi, perché è vero, i mini bond sono pochi, però il maggiore emittente di mini bond siete voi, e se vogliamo parlare di soggetti intermedi, voi avete anche un fondo che poi in parte li sottoscrive, questi mini bond. Guarda, innanzitutto una premessa, è vero che gli investimenti sono scarsi, c'è un dibattito al quale non si è ancora data una risposta definitiva, se viene prima l'uovo o la gallina, se cioè gli investimenti sono scarsi perché manca il credito o viceversa. Detto questo, io credo, sono assolutamente d'accordo con il dottor Crapelli, e sono così d'accordo che noi come banca Fininte e come Fininte abbiamo da tempo iniziato a lavorare concretamente, cioè a creare gli strumenti e a lavorare sui concetti che diceva proprio il dottor Crapelli. In particolare, noi come Fininte siamo stati il primo soggetto italiano a creare un fondo di mini bond, il fondo PMI Italia, che non sono cifre importanti, ma abbiamo cominciato a crearlo. Il fondo mini bond Italia è un fondo di 60 milioni di euro che ha già sottoscritto 12 emissioni in particolare. E poi oltre a questo avete fatto la prima operazione di bond di filiera, anche se molto più piccolo di quelli di cui parla Crapelli, perché con l'idrobond avete aggregato 38 società idriche che hanno sottoscritto un unico bond. Infatti il quadro da dire è che effettivamente in Italia bisogna staccare le imprese da un finanziamento esclusivamente bancario. Oggi, con le ultime anche norme di legge, mi riferisco in particolare al decreto sviluppo del 2012, si sono create le premesse perché gli operatori possano realizzare altri strumenti rispetto al semplice credito bancario. I mini bond abbiamo detto, noi abbiamo realizzato anche proprio uno dei concetti di cui parla il dottor Crapelli, cioè mettere insieme più imprese. Abbiamo messo insieme una serie di aziende operanti nel settore dell'acqua, della distribuzione dell'acqua, e aziende che singolarmente non avrebbero potuto fare un'operazione, un'emissione di mini bond, li abbiamo messi insieme, abbiamo aggiunto per una parte una piccola parte garanzia da parte della finanziaria regionale, essendo tutte aziende del Veneto, e poi abbiamo fatto questa emissione che ha consentito un investimento della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, è stata molto entusiasta. Quindi l'ha controgarantito? Ha investito 150 milioni di euro. Io avevo capito che la BEI l'avesse controgarantito. No, la BEI ha sottoscritto sottoscritto i bond che sono stati emessi dalle aziende dell'acqua, e che questi bond hanno avuto per una parte una garanzia di Veneto Sviluppo, essendo tutte aziende del Veneto. E quindi questa garanzia ha permesso di abbassare il costo del finanziamento. Esattamente. Perché mi ricordo che era 4%, una cifra irrisoria. Infatti che singolarmente non l'avrebbero dovuto fare, messo insieme questa credo è una delle operazioni che la BEI cita come operazioni di successo dell'ultimo anno. È stata così di successo che proprio un mese fa abbiamo fatto la seconda emissione con le stesse aziende dell'acqua, e sempre con l'intervento di BEI, quindi è già la seconda che facciamo con le stesse aziende. Oggi stiamo vedendo in altre regioni di ripetere questa operazione, che potrebbe essere ripetuta non solo per una serie di aziende che operano nell'acqua, multi-utility, eccetera, ma che potrebbe essere ripetuta anche per i distretti, per le filiere industriali. Ecco, io ricordo ai nostri ascoltatori che da pochissimi giorni è anche disponibile una nuova forma di finanziamento che si chiama ELTIF, European Long Term Investment Fund, e che sono dei fondi a lunghissimo termine per progetti industriali complessi resi possibili da una direttiva dell'Unione Europea. Lei conosce questo strumento, dottor Marchi? Noi non l'abbiamo ancora adoperato, però ecco, rientra sicuramente nel quadro di cui parlavo prima. Un altro esempio che mi piace fare è quello di un esempio virtuoso è quello del Trentino Alto Adige. Ah, ha sì, costituito certo. un fondo, cosiddetto il fondo strategico, poi ha messo a gara la gestione di questo fondo strategico, che oggi ha una dotazione di circa 230 milioni di euro. Noi come Fininta SGR abbiamo vinto questa gara e oggi gestiamo questo fondo che fa credito alle aziende sotto forma di mini bond, sotto forma di project bond, sotto forma di cambiali finanziarie, che è un altro degli strumenti introdotti dal decreto sviluppo del 2012 e che quindi sono già strumenti operativi a favore delle aziende. Si tratta di mettere in moto un nuovo mercato del debito, non è mai facile. Io però sono fiducioso che succeda per queste operazioni, per questi strumenti, quello che è successo con le cartolarizzazioni. Noi come Fininst siamo stati anche il primo operatore a organizzare e a strutturare un'operazione di cartolarizzazione nel lontano 1991. A quell'epoca, mi creda, non c'era nessuno che credeva nel futuro delle cartolarizzazioni. I professori scrivevano sui giornali perché non si potevano fare, poi hanno scritto perché aveva successo. Ecco, io mi auguro che... Tra l'altro adesso siete il primo operatore nelle cartolarizzazioni in Italia, no? Sì, noi siamo il primo operatore, abbiamo organizzato più di 100 operazioni di cartolarizzazione e oggi gestiamo, tra operazioni di cartolarizzazione organizzate da noi e organizzate da terzi, di cui noi siamo i backup servicer, più di 280 miliardi di euro. Ecco, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Agli ascoltatori dico di rimanere in linea perché dopo ci saranno alcune novità su come finanziare le aziende dell'economia reale, parleremo ancora di questi fondi ELTIF, parleremo dell'equity crowdfunding, cioè di come andare in rete a raccogliere soldi per le start-up e soprattutto chiederemo ai nostri ospiti come l'imprenditore o il piccolo imprenditore deve reagire a questa crisi di borsa. Dunque restate con noi. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era, Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione, Filippo. Aspetta. Cari bagnanti, tutti voi, almeno una volta nella vita, vi siete sentiti fuori posto. E noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno i Fuori Posto. Dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 02 46 52 41 82 o via sms al 349 23 86 666. Fabbrica 2.4. Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi. Rieccoci qua, stiamo parlando con due esperti come Roberto Crapelli di Roland Berger ed Enrico Marchi di Fininst di come fare arrivare i soldi alle imprese dell'economia reale. imprese dell'economia reale che purtroppo negli ultimi 6 anni hanno un po' smesso di investire. Vi avevo promesso che avremmo anche parlato di formule di finanziamento un po' più spicciole, cioè gli ELTIF, gli European Long Term Investment Fund e l'equity crowdfunding, per cui le PMI innovative vanno in rete grazie a operatori specializzati e chiedono i soldi. Ecco una scheda sul tema. Da qualche giorno gli imprenditori dell'economia reale possono avere accesso a 2 innovative modalità di finanziamento: l'equity crowdfunding per i piccoli e giovani imprenditori, mentre i più grandi possono affidarsi agli ELTIF. Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone, dall'inglese crowd, folla, conferiscono somme di denaro, dall'inglese fund, finanziamento, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet, piattaforme o portali, talvolta ricevendo in cambio una ricompensa. Si parla di equity-based crowdfunding quando, tramite l'investimento online, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. In tal caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Questa modalità è consentita in Italia per le start-up innovative. Sono ben 18 le piattaforme online autorizzate in Italia alla raccolta di equity-based crowdfunding. Chiunque può andare sui loro siti internet e acquistare azioni di startup. Per trovarle, basta digitare equity-based crowdfunding su Google e il gioco è fatto. Chi invece volesse aprire una startup e finanziarla così, deve però riuscire a convincere i gestori della piattaforma che il suo progetto merita di essere preso in considerazione. Finora la cifra totale raccolta in questo modo è assai modesta, appena 3 milioni di euro, ma dovrebbe decollare presto. Il 4 febbraio, infatti, Intermonte SIM ha dichiarato la sua intenzione di lanciare un mercato secondario per le quote delle società finanziate in equity crowdfunding su piattaforme italiane. I grandi industriali, invece, possono ricorrere ad ELTIF, l'acronimo di European Long Term Investment Fund, ovvero fondi di investimento europei a lungo termine. Si tratta di prodotti finanziari privati, previsti da un regolamento dell'Unione Europea, che potrebbe favorire la nascita e lo sviluppo di molte attività industriali. Gli ELTIF sono investitori pazienti, possono dedicarsi solo ad attività che richiedono un impegno del capitale nel lungo periodo. La scadenza minima di un ELTIF sarà infatti di 10 anni. Inoltre l'investimento minimo possibile è di 10 milioni di euro e i settori di investimento sono diversi, dalla manifattura ai trasporti, dalle infrastrutture all'energia e ai progetti di carattere sociale. Le quote di ELTIF potranno essere vendute sia sul mercato degli investitori professionali, sia al dettaglio ai piccoli risparmiatori. I sottoscrittori saranno scoraggiati, attraverso penali e vincoli di varia natura, a ritirare il capitale prima della scadenza. La loro pazienza dovrebbe venire ricompensata dalla regolarità del flusso di reddito prodotto dall'attività di investimento. Rieccoci in linea dopo la scheda. Allora, volevo chiedere, dottor Crapelli, ma lei che è stato tanto tempo in America e si occupa di finanza internazionale, questo equity crowdfunding, che sarebbe che le PMI, le startup, grazie a operatori specializzati, si mettono in rete e su dei siti di questi operatori raccolgono i soldi, lei come lo vede? Lo vedo inevitabilmente come uno dei trend in corso e fa parte di un altro titolo che leggeremo in giro e si chiama FinTech, finanza tecnologica. È inevitabile pensare che non, le banche non potranno detenere ancora ulteriormente il monopolio del credito alle aziende. Le aziende avranno una governance, una trasparenza, una struttura degna del mercato dei capitali e questa renderà possibile il crowdfunding. Senza questo il crowdfunding non è competitivo rispetto alle banche. Beh, ma il crowdfunding forse per progetti più innovativi, avveniristici. Non necessariamente, noi lo vediamo possibile sia nei finanziamenti di linea breve, ci sono delle iniziative startup interessanti, ad esempio sugli account receivable, cioè sulle fatture da incassare, e ci sono iniziative invece sugli investimenti. Allora, gli imprenditori che sono in linea e anche i piccoli imprenditori lo devono sapere. Da gennaio di quest'anno è possibile andare in rete, chiedere i soldi alla rete e ottenerli. Può sembrare una cosa strana, però negli Stati Uniti ottenerli dipende da alcune condizioni che sono quelle poi che fanno la differenza. Occorre un rating, occorre un piano, occorre una serie di condizioni che non sempre sono ovvie, soprattutto se non si pianifica la ricerca del capitale per l'investimento. Se si ha l'occasione per fare un'acquisizione e rimangono 3 mesi disponibili, allora in questo caso il crowdfunding non è immediatamente disponibile. Ecco, noi siamo collegati a distanza col dottor Marchi, per cui io non posso vedere la faccia, ma quando si parla di raccogliere soldi in rete in quel modo lì, un po' me la immagino. Ben vengano tutti questi strumenti che contribuiscono a modernizzare il nostro sistema finanziario. Come dicevo prima, noi stiamo facendo la nostra parte con alcuni strumenti, ci siamo dedicati ai mini bond, alle cambiali finanziarie, ai bond di filiera, ai project bond. Altri operatori mi auguro che introducano con successo anche questo tema, per esempio del crowdfunding. Ok, certo non vedo Finanziaria Internazionale come l'operatore che apre un sito sul web per fare il crowdfunding, però comunque ne sono nati ben 18. Tra l'altro volevo leggere i dati dell'ABI sui finanziamenti alle imprese, perché secondo l'Associazione Bancaria Italiana non è vero che non avvengono prestiti alle imprese, anzi l'ABI dichiara di aver erogato negli 11 mesi del 2015 il 13% in più dei prestiti alle imprese. Per quanto riguarda in generale i finanziamenti a famiglie e imprese, rispetto all'anno scorso si parla dello 0,5% in più. Inoltre, nell'arco di tempo compreso tra il 2007, prima dell'inizio della crisi, e oggi, secondo l'ABI, i prestiti all'economia sarebbero passati da 1.673 miliardi a 1.830 miliardi, con un incremento di 157 miliardi, il più 9,3%. Quindi non vuol dire che le banche sono brutte e cattive, come si dice e come spesso si dice nei convegni, anzi, secondo l'ABI sarebbero anche un po' delle vittime, visto che il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 10,4% e il rapporto sofferenze nette su impieghi del 4,89%. Quindi che cosa ne pensa lei, dottor Marchi? Sono brutte e cattive le banche? Sono vittime? Aiutano le imprese? Cosa sono? No, io credo che non siano brutte e cattive. Credo che se andassimo a vedere prima del 2015 probabilmente sicuramente abbiamo avuto una contrazione del credito. L'anno scorso effettivamente si è ricominciato a vedere un'inversione di tendenza. Credo che però il problema non sia tanto nelle banche, ma nella regolazione del sistema bancario. Oggi obiettivamente le banche sono disincentivate a dare crediti. Se noi guardiamo la normativa, soprattutto a certe forme di credito, se noi guardiamo la normativa italiana, internazionale, europea, guardiamo il peso sul capitale che i singoli tipologie di crediti vanno a pesare sui bilanci delle banche, guardiamo i tassi che sono prossimi allo zero, ebbene credo che non si possa gettare una croce sulle banche, e penso che fare banca oggi in Italia e in Europa sia comunque un mestiere molto difficile. Senta, questi è il TIF, European Long Term Investment Fund. Lei si è fatto un'idea in proposito? Penso che possano essere anche questi degli strumenti interessanti. Sono indirizzati a investitori istituzionali, ci sono delle quote minime, mi pare che sia uno strumento che può avere un successo anche questo. Ecco, una cosa che interessa moltissimo ai nostri radioascoltatori: questa borsa che sembra andare sempre un po' più giù, per le imprese dell'economia reale, che cosa può comportare? Sicuramente delle difficoltà. E soprattutto quello che io spero non succeda è che non venga minata quella fiducia dei consumatori che avevamo cominciato invece a rivedere in crescita. Mi pare che specialmente negli ultimi mesi c'è stato da un lato un problema delle imprese, i bilanci, l'economia, la finanza, eccetera, dall'altro si assiste comunque a una crescita nella fiducia dei consumatori, e questo è l'elemento che fa sperare. Il fatto che i consumatori, grazie anche ai benefici, perché il calo del petrolio travolge alcuni settori, ma crea benefici per il consumatore finale. Una minore spesa di benzina, di elettricità, eccetera, crea l'opportunità per i consumatori di cominciare a spendere per la loro qualità di vita. Ecco, quindi credo che però in tutto questo ci sia bisogno di un intervento chiaro del legislatore, della politica. Oggi credo che il problema principale delle borse sia dovuto a una mancanza di risposte e di enunciazioni chiare da parte della politica su alcuni temi. Ecco Marchi, mi piacerebbe parlare ancora, ma sono costretto a fermarla qui perché il tempo è in scadenza. La sentiremo ancora in altre occasioni. Grazie a lei e arrivederci a tutti gli ascoltatori. Purtroppo il dottor Crapelli si è dovuto allontanare prima, anche lui saluta gli ascoltatori. Arrivederci alla prossima puntata.